9 in punto. Buongiorno da Gianfranco Fabio. Allora, come annunciato, oggi venerdì 17 agosto parliamo di Giappone, parliamo di questa grande realtà, questo grande paese, 130 milioni di abitanti, un impero, ancora un imperatore e una monarchia costituzionale. Il Giappone è una grande potenza economica tradizionale di cui forse si parla poco come potenza economica. Ne abbiamo parlato molto l'anno scorso in occasione dei tragici del tragico tsunami, della vicenda della centrale nucleare di Fukushima. Poi se ne è parlato un po' meno e adesso appunto il Giappone comunque resta un elemento importante nello scacchiere economico, in questa realtà economica globale in cui dobbiamo cercare una via d'uscita per la crisi e migliorare le relazioni economiche. L'internazionalizzazione delle imprese è un dato fondamentale soprattutto per le imprese italiane. Allora il Giappone è una grande opportunità. Vediamo come sotto tanti profili, quello economico, quello culturale, quello politico, anche quello appunto dei rapporti che possono esserci a livello di scambi umani, di scambi sociali, di scambi appunto culturali. Vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per le vostre telefonate, il 238 66 66 per i vostri messaggi SMS. Buongiorno a Vincenzo Petrone, ambasciatore italiano in Giappone. Buongiorno. Buongiorno ambasciatore, buongiorno Stefano Carrer, inviato, giornalista del Sole 24 Ore. Sì, buongiorno Gianfranco. Io comincerei subito con Carrer perché c'è un messaggio SMS che dice, è vero, io ho detto nella prima parte, lanciando il programma, che c'è quasi un milione di giapponesi che vengono in Italia e 60-70 mila italiani che vanno in Giappone, e ci chiede, ma cosa c'è di bello in Giappone per andare a fare un po' di turismo? Stefano Carrer. Io direi che il Giappone ha un'offerta turistica di assoluta eccellenza. Questo non tutti lo percepiscono, ma chi c'è stato normalmente ritorna entusiasta. Questo perché sia a livello paesaggistico, anche se diciamo il paesaggio urbano giapponese non è sicuramente dei migliori, ma a livello paesaggistico si possono trovare da ambienti nordici polari fino ad ambienti tropicali, e a livello culturale se uno vuole immergersi nella modernità più estrema, il Giappone la offre. Se uno invece vuole immergersi nella tradizione, quasi entrando in una macchina del tempo per ritornare indietro al passato, anche qui il Giappone può offrire delle eccellenze assolute. Sì, che spesso non si trovano anche in altri paesi. Si tratta appunto di avere anche la curiosità di conoscere. Ambasciatore Petrone, come sono i rapporti tra Italia e Giappone da un punto di vista politico, possiamo dire franchi e cordiali con linguaggio diplomatico, ma della concretezza, come stanno andando le relazioni tra Italia e Giappone, quali sono le prospettive, quali possono essere i punti di forza su cui innestare un miglioramento, ovviamente sempre possibile, di questi rapporti? Vincenzo Petrone, ambasciatore italiano in Giappone. Il dato di fondo è che i rapporti tra l'Italia e il Giappone non potrebbero in realtà essere migliori. Non abbiamo nessun contenzioso politico di alcun genere, abbiamo una lunga tradizione, direi quasi di alleanza politica con il Giappone, che è sempre stato l'avamposto di tutto il mondo delle economie di mercato, delle democrazie in Asia, quindi su quell'aspetto c'è poco da dire. Sull'aspetto invece della cultura, della conoscenza reciproca, della simpatia, non c'è dubbio che noi italiani siamo nell'immaginario giapponese il paese che in assoluto in Europa rappresenta la qualità della vita, lo stile, diciamo il buon vivere. Questo si traduce, come le dicevo un attimo fa Carrera, anche in un grande flusso di turisti giapponesi verso l'Italia. Invece gli italiani sanno poco del Giappone, perché ci vanno poco, ma anche perché la promozione culturale, se posso dire così, che i giapponesi fanno in Giappone spesso è centrata sulla cultura italiana, sull'arte italiana. Lei pensi che per esempio l'anno scorso le mostre dell'autunno di Tokyo sono state praticamente tutte le più grandi, tutte italiane, da Leonardo, la musica, è una straordinaria simpatia e attenzione che il grande pubblico giapponese ha per l'Italia. Sul piano economico stiamo andando molto bene, potremmo fare molto di più, nel senso che noi abbiamo un'esportazione di prodotti italiani che ormai supera i 5 miliardi di euro, importiamo un po' meno di tanto, ma più o meno la bilancia commerciale è in pareggio, ma le prospettive sarebbero di gran lunga migliori, nel senso che se il mercato giapponese fosse di più facile accesso, le nostre aziende sicuramente potrebbero fare di più. Ecco, su questo. Sì, perfetto, grazie ambasciatore. Un attimo, volevo sentire da Carrere una brevissima fotografia di come sta andando l'economia giapponese in questo momento, appunto dopo il disastro di Fukushima, dopo lo tsunami, dopo questa realtà che secondo qualche economista avrebbe potuto anche dare un impulso appunto alla crescita. A un anno di distanza da questi eventi, come sta andando l'economia giapponese? Sì, dunque, fino a poco tempo fa la maggior parte degli analisti e dei broker riteneva che il Giappone quest'anno avrebbe conseguito la maggiore crescita tra tutti i paesi avanzati. Questo perché? Non per una forza intrinseca dell'economia giapponese congiunturale, ma perché è entrata a regime una manovra di stimolo fiscale, di stimolo pubblico all'economia legata appunto alla ricostruzione, perché c'è un'intera regione, la regione settentrionale del Giappone, proprio da ricostruire, e quindi c'è questa manovra di stimolo pubblico all'economia. Se non che gli ultimi dati hanno un po' così messo qualche dubbio sul passo di crescita dell'economia giapponese. Perché? Per due motivi. Da una parte l'export sta cominciando a soffrire chiaramente quello che è il rallentamento economico, la recessione sostanziale che c'è in Europa, e anche la frenata dell'economia dei paesi emergenti, in parte tra l'altro collegata anche ai problemi delle economie avanzate. Poi questa manovra di stimolo sta cominciando a evaporare, e anche la domanda al consumo nei prossimi mesi dovrebbe forse contrasto o comunque diminuire, proprio perché alcuni incentivi pubblici, per esempio quelli all'acquisto di auto ecologiche, stanno per finire. Anche perché anche il Giappone ha i suoi problemi di conti pubblici, ha un debito pubblico che è ben maggiore di quello italiano, anche se il debito pubblico giapponese è quasi interamente posseduto all'interno del Giappone, e quindi non ci sono appunto problemi di spread sul fronte dei tassi di interesse giapponesi, che restano particolarmente bassi. Ecco, ambasciatore Petrone, lei lascerà tra poco l'ambasciata a Tokyo e diventerà presidente della SIMEST, della Società per il Commercio Estero Italiano. Sotto questo profilo il Giappone sarà uno dei, dato anche la sua conoscenza, una delle opportunità che già diceva prima è sfruttata poco, perché c'è una grande stima per il marchio Made in Italy, ma forse le aziende italiane potrebbero fare di più. In questo senso è possibile fare di più dei rapporti commerciali con il Giappone, ambasciatore Petrone? Ma guardi, non c'è dubbio. Intanto mi permetta di ricordare che in questi ultimi 12 mesi il flusso degli investimenti industriali giapponesi in Italia è stato molto elevato, è stato maggiore che nei sette anni precedenti messi insieme. Nel solo 2011 noi abbiamo totalizzato circa 1.300 milioni di euro di investimenti greenfield, quindi proprio totalmente nuovi da parte giapponese. In questo momento in Italia ci sono qualche cosa come 36.000 persone che lavorano in aziende controllate da aziende giapponesi. Non è vero il contrario, cioè le aziende italiane investono poco in Giappone. C'è una serie di ragioni per questo, però il dato obiettivo è che tutte le aziende italiane che in Giappone hanno creato delle iniziative industriali e hanno creduto in queste, nel senso di mantenere la loro sostenibilità per un certo numero di anni, non ce n'è una che io abbia conosciuta, che abbia conosciuto in questi miei 4 anni di esperienza giapponese, non ce n'è una che se ne sia pentita e abbia lasciato quel paese. Dunque è un mercato difficile da penetrare, ma che una volta fidelizzato, se posso dire così, dà delle grandi soddisfazioni. Lei pensi che nel settore della moda, per esempio, la gran parte delle nostre società ormai fanno un fatturato più elevato in Cina che in Giappone, e ciò nonostante i profitti, i margini che realizzano in Giappone sono sempre di gran lunga più elevati di quelli che realizzano in Cina. Ora, il nostro problema è che il Giappone è obiettivamente un mercato difficile. Perché? Perché è molto differente dal nostro, perché la lingua è quella che è, perché le regolamentazioni sono, a mio modo di vedere, eccessive, ma sono comunque estremamente totalizzanti, se posso dire così. Dunque un'azienda, soprattutto un'azienda piccola, ha delle difficoltà a creare un proprio insediamento improduttivo o a prendere il controllo di una società giapponese. Ecco. E in più, scusi, ho finito, prego, prego, prego. C'è una certa riserva culturale, se posso dire così, l'industria giapponese crede in ogni sua fibra che la tecnologia giapponese, la maniera di produrre giapponese è in assoluto la migliore del mondo, e chi non si adegua evidentemente produce prodotti inferiori. Dopodiché vengono a comprare i nostri. Quindi, per fare soltanto un esempio, la nostra chimica farmaceutica oggi costituisce la prima voce di esportazione di prodotti italiani in Giappone, cosa che credo pochi sappiano. Certo. nel mondo giapponese. Può essere un po' la sorpresa. Ecco, proprio su questo profilo, sulla difficoltà di entrare sul mercato giapponese, ringraziando l'ambasciatore, comunque resti con noi, vorrei salutare Vittorio Volpi. Buongiorno, dottor Volpi. Vittorio Volpi è un banchiere, ha vissuto per oltre 30 anni in Giappone, è un grande conoscitore della realtà giapponese, è stato anche presidente e direttore della Camera di Commercio Italo-Nipponica ed è autore di un recente libro, Il visitatore, Alessandro Varignano, un grande maestro italiano in Asia. Alessandro Varignano, forse ci spiegherà meglio Vittorio Volpi, comunque è un grande missionario gesuita che 500 anni fa andò appunto in Giappone e fu forse uno dei primi a capire, a cercare di entrare, a capire e a comprendere la mentalità giapponese. Allora, Vittorio Volpi, cosa ci insegna, chi era Alessandro Varignano e cosa ci insegna adesso per noi che dobbiamo proprio, che abbiamo l'opportunità di avere delle forti relazioni con il Giappone? Vittorio Volpi. Allora, sul primo punto credo che il grande merito di Mi scusi, dottor Volpi, c'è un problema di linea, dobbiamo richiamarla perché si sente abbastanza male. Allora, torniamo con Stefano Carré proprio su questo fronte, sui rapporti culturali, poi Vittorio Volpi ci spiegherà la figura di Varignano. Sì, ecco, ci sono delle differenze di approccio culturale in Giappone rispetto all'Italia, e la lezione del Varignano è stata proprio quella di enfatizzare la necessità e l'opportunità di aprirsi al confronto culturale e rispettare la cultura diversa dalla nostra. In questo senso vorrei per esempio fare, appunto, perché si parlava delle difficoltà di approccio al mercato giapponese, avevo parlato recentemente con l'amministratore delegato di un'azienda italiana biotecnologica che dice: oh, ma il Giappone è l'unico grande mercato tra quelli mondiali in cui abbiamo una quota insignificante, io voglio crescere presto in questo mercato, vorrei acquisire un'azienda giapponese. Allora si è rivolto a una banca d'affari e questi gli hanno spiegato: sì, ma non è che tu arrivi qua straniero, metti i soldi sul tavolo, ecco, questi sono i soldi, voglio la vostra azienda. No, lì funziona molto diversamente, proprio a livello culturale, per cui diciamo per i giapponesi vendere soprattutto agli stranieri d'amblè e solo per una questione di soldi è una cosa negativa, è una cosa che fa perdere la faccia, perché prima loro hanno anche un senso di responsabilità verso i dipendenti, verso le maestranze, per cui non è che vendono a un private equity che magari chiude l'azienda e la spreme, no? Addirittura, per esempio, ecco, per fare un altro esempio di un'azienda italiana che ha acquistato un'azienda giapponese, la Eurotech di Udine, e praticamente l'amministratore delegato mi spiegava che lui comprava, ma i giapponesi sono questi di questa società sono venuti a vedere la sua azienda, l'hanno occupata militarmente per 2 giorni, lui dice: ma come, stanno facendo la due diligence su di me, ma sono io che sto comprando. Ci sono certe procedure, certi rapporti umani che certamente sono diversi. Torniamo allora con Vittorio Volpi, lo ricordo, banchiere, vissuto per 30 anni a Tokyo, ha scritto questo libro, Alessandro Varignano, un grande maestro italiano in Asia. Che cosa ci insegna ancora oggi Alessandro Varignano? Vittorio Volpi. Allora, Varignano ci insegna innanzitutto, la sua grande scoperta è stata che la parola cultura ha un plurale, e arrivando in Giappone con tutto lo zelo e le speranze che Francesco Saverio gli aveva lasciato, scoprì di trovarsi di fronte a una grande cultura, certamente non inferiore a quella europea, con la quale bisognava fare i conti. E questo è un po' il dramma dei nostri giorni, di quando si va in paesi con culture molto diverse, soprattutto nell'area confuciana, quindi Cina, Corea, Giappone e Taiwan. In particolare il Giappone, che è una deformazione poi del confucianesimo, ovviamente ci si trova di fronte a degli ostacoli, come stava dicendo Carrère, per esempio vendere un'azienda, acquisire un'azienda, venderla, in giapponese si traduce con prostituzione, cioè vendersi per un'azienda giapponese ha il significato di prostituirsi, e quindi è molto difficile chiaramente fare certe cose nel paese, come diceva l'ambasciatore Petrone, ci sono sicuramente delle regole, ma molto di più è la cultura che è la vera barriera all'ingresso e che molte aziende italiane non hanno avuto né la forza né la voglia di affrontare. Bisogna poi dire che le aziende italiane sono molto piccole, il Giappone è molto caro, c'è un biglietto d'ingresso che è molto elevato e quindi rende certamente complesso affrontare il mercato. Ecco, però superate queste barriere, una volta pagato il biglietto d'ingresso, come diceva l'ambasciatore Petrone, i margini possono essere anche elevati, perché il Giappone comunque è una realtà di livello occidentale, a livello di consumi, tra ai primi posti, a livello di qualità e di appunto potere d'acquisto da parte delle persone, quindi è una realtà in cui da un punto di vista economico è possibile avere un'integrazione in un certo senso più facile che non verso realtà in via di in crescita, anche se ormai sicuramente emerse come quella cinese. Vittorio Volpi. Sicuramente è un mercato molto remunerativo quando si è superata la fase iniziale, che comunque ovviamente è molto costosa e richiede anni di ammortamenti. È un mercato con 127 milioni di abitanti, con un reddito pro capite di 40.000 dollari, con un grandissimo amore e interesse verso tutto quello che è prodotto italiano, la nostra bellezza, il nostro gusto estetico che condividono con noi. Quindi certamente una volta che ci si è inseriti nel mercato e si fanno le cose giuste, è un mercato estremamente remunerativo. Quindi il Giappone rimane comunque un mercato molto importante per tutti noi, anche perché è un po' lo specchio delle allodole per tutte le aziende italiane che vanno in Asia. Il Giappone viene sempre guardato come un punto di riferimento. Ecco, non solo dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista sportivo. Abbiamo in linea Alberto Zaccheroni, allenatore della nazionale di calcio giapponese da un paio d'anni, è stato allenatore di Milan, Udinese, Juventus, Lazio, Inter e ha portato la nazionale nipponica al successo nella Coppa d'Asia, è stato addirittura ricevuto dall'imperatore, cosa rarissima per le persone normali. Oggi si trova a Fukushima con 180 bambini, piccoli calciatori giapponesi per onorare la memoria di quei giorni. E allora salutiamo Alberto Zaccheroni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, come si è trovato in Giappone? Quali sono le differenze maggiori che ha trovato tra la società giapponese, il modo di vita, lo stile di vita giapponese e quello italiano? Beh, è certamente più intenso del nostro, però la differenza come ambiente diciamo che l'ho trovato soprattutto nella maggiore pulizia, perché loro sono maniaci della pulizia, anche giustamente secondo me, maniaci delle regole, e di conseguenza quello che stupisce rispetto non solamente all'Italia ma anche a tutti gli altri paesi del mondo è la sicurezza quotidiana, chiamiamola così. Quindi ecco, un ambiente di vita forse più tranquillo, più regolato, forse con un po' meno fantasia. Molto più regolato, in alcuni frangenti può sembrare anche troppo, però sappiamo benissimo che vige la regola che se dai un dito poi dopo uno si perde un braccio, e quindi questo qui non succede. Ecco, ma un allenatore di una squadra di calcio deve allenare, deve insegnare ad avere anche fantasia, originalità, trovare soluzioni nuove. Forse con dei giapponesi abituati ad essere così, a seguire delle regole è un po' difficile? Ma direi che invece sono sorprendenti, perché ci sono giocatori con talento importante. Due sono già famosi in Europa, che sono Honda, che gioca nel CSKA di Mosca, e Kagawa, che è stato appena trasferito al Manchester United. Sono due giocatori estrosi, a differenza della massa, infatti fanno parte stabile della nazionale. Insomma, hanno anche una discreta creatività, devo dire, calcisticamente. Ecco, quindi si può dire che anche un ambiente regolato, ordinato, rispettoso possa lasciare spazio poi all'estrosità, all'irrazionalità, alla creatività. Mi sembra che negli altri settori, a cominciare dall'elettronica e dall'arte, mi sembra che i giapponesi siano sempre fortemente distinti per l'iniziativa e per creatività. Ecco, quindi anche sotto il profilo culturale il Giappone è una realtà dinamica, una realtà originale. Siamo abituati forse a considerarlo diversamente, anche con qualche pregiudizio. Visto da vicino, il Giappone ha un suo fascino, Alberto Zaccheroni. Ha un fascino straordinario per quanto mi riguarda. Devo dire che è una piacevolissima sorpresa, in quanto noi italiani sappiamo ben poco del Giappone, perché non è certamente una meta turistica nostra, non c'è una spiaggia organizzata, i costi non sono certamente ridotti, la vita qui a Tokyo è parecchio cara, e quindi non è certamente, come dicevo, una meta turistica nostra. Di conseguenza informazioni precise su questo paese ne abbiamo decisamente poche. Io quando ero in Italia sentivo sempre il riferimento della parola sayonara, una parola giapponese maggiormente comune. Io in 2 anni non l'ho mai sentita. So che vuol dire arrivederci, ma è un termine che non usano mai. Anche perché lei non lo sta usando, mi sembra contento di essere. Dov'è, come è vista l'Italia dai giapponesi, diciamo, dai giapponesi normali, dalla gente per strada, se possiamo dire così? Diciamo che amano sia il paese che la gente. Il paese per la varietà che ha, che offre, dal punto di vista artistico, dal punto di vista della storia, dal punto di vista paesaggistico e della cultura, e molto anche delle personalità italiane per l'estrosità, per questa vita, questo manifestarsi un pochino in maniera scanzonata, sapere anche ridere, insomma. Loro sono molto, da questo punto di vista, sono meno allegri, sono molto concentrati sul lavoro. Grazie mille Alberto Zaccheroni per questa testimonianza in diretta da Tokyo. E ora andiamo con la pubblicità. 9 in punto. Eccoci tornati a 9 in punto, abbiamo parlato con Alberto Zaccheroni, ambasciatore italiano a Tokyo in senso sportivo, nel senso che è appunto allenatore della nazionale di calcio giapponese. Vi ricordo l'800 24 00 24 per le vostre telefonate, il 349 238 6666 per i messaggi SMS. C'è una domanda in un messaggio SMS: è possibile trovare lavoro in Giappone, per esempio per un ingegnere? Ma lo rivolgo magari all'ambasciatore Vincenzo Petrone. È possibile per un italiano pensare di andare a lavorare in Giappone da singolo, magari da giovane neolaureato? Certo, bisogna conoscere la lingua, perché diversamente diventa molto difficile. Però non c'è dubbio, guardi, ci sono decine di giovani italiani che lavorano in aziende giapponesi anche medio grandi. Ci sono decine di ricercatori italiani che sono in Giappone perché in Italia hanno avuto difficoltà a trovare un incarico. Dunque io incoraggerei molto i giovani ad andare a fare l'esperienza giapponese, perché marca poi, diciamo, l'identità professionale di un professionista, di un dirigente per tutta la vita. Certo, bisogna imparare un minimo della lingua, perché diversamente diventa impossibile inserirsi. Vittorio Volpi, non è facile imparare la lingua giapponese. Ma io dico sempre che se la parlano 127 milioni di persone non può essere impossibile. Certamente è complessa, soprattutto la lettura, e soprattutto se, come ho fatto io, lo si fa da grandi, quando certamente si ha meno capacità di memoria e il modo di apprendere cambia moltissimo. Però è una lingua dove ci si può arrivare, non è sicuramente una cosa impossibile. È complessa, bisogna cambiare paradigma, bisogna andare nel mondo degli ideogrammi, bisogna andare nel mondo di una cultura visiva e non auditiva come la nostra, quindi certamente non facile. Ecco, c'è un'altra domanda con un messaggio SMS, anche ricordando un po' quanto sta avendo in questi giorni, si riaffiora un po' il contrasto tra Giappone e Cina per contesa su queste isole, e sembra una nuova mini crisi politica, speriamo di dire mini. C'è molta differenza tra Cina e Giappone, lo chiedo a Vittorio Volpi. Le differenze, la matrice ovviamente è fortemente cinese del Giappone, nel senso che la lingua stessa, gli ideogrammi sono stati mutuati, il buddismo e il confucianesimo, che sono state le spine dorsali del paese, sono certamente mutuati. Gli stadi di sviluppo dei due paesi sono molto diversi, la Cina è ovviamente molto continentale, molto basata sulla famiglia. Il Giappone ovviamente ha scoperto la famiglia come la intendiamo noi nel dopoguerra, e ci sono molti sintomi che il modello si stia abbastanza modificando per il futuro. Le differenze sono enormi in termini di mentalità, nel senso che la Cina è ormai una potenza mondiale che si presenta al mondo certamente con una capacità di negoziare anche a livello internazionale fortissima, non accetta mai compromessi quando le cose sono di interesse nazionale. Il Giappone è un paese molto più accomodante, che si tiene i suoi problemi molto nella pancia, ma credo che l'ambasciatore Petrone possa elaborare su questo punto molto meglio di me. Beh, allora vi offro l'assist per richiamare ancora l'ambasciatore Petrone poi su questo punto, sui rapporti Cina-Giappone e sulle differenze tra Cina e Giappone. Vincenzo Petrone, ambasciatore italiano a Tokyo. Guardi, sulle differenze, quello che ha detto Vittorio Volpi mi sembra assolutamente condivisibile. Sulla difficoltà non c'è dubbio che il Giappone soffre l'ascesa cinese in Asia, come logicamente, come d'altro canto, se mi permette un piccolo parallelo, come la Francia ha sofferto la crescita della Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dunque non c'è dubbio che ci sia una certa difficoltà ad accettare questo gigante che sta lentamente affermando una propria pretesa di egemonia regionale. Il problema che il Giappone trova con la Cina, ma è lo stesso problema che trovano tutti i vicini della Cina, e che questa grande potenza cinese si sta manifestando sul terreno, per esempio nel Mar della Cina, appunto, senza grandi disponibilità a negoziare, a creare dei fori, delle istanze multilaterali nei quali discutere i problemi di frontiera, i problemi di piattaforma continentale in oceano. Dunque la Cina ha una difficoltà obiettiva di relazionarsi con i suoi vicini in questo momento di straordinaria ascesa politica ed economica, e il Giappone, essendo il più grande dei vicini, naturalmente è il paese che meno ammette questa affermazione unilaterale di potenza che da Pechino si sente venire. Devo dirle con franchezza che, nonostante la cura che il governo giapponese pone per evitare l'acuirsi della difficoltà politico-diplomatica con la potenza cinese, nonostante ciò il rischio di un aggravarsi della situazione esiste, ed esiste soprattutto quest'anno, perché non bisogna dimenticare che la Cina è in piena transizione politica, di leadership, da una classe ad un'altra, da una generazione ad un'altra. In questo momento ci sono le elezioni, o sono imminenti le elezioni negli Stati Uniti, che non possono certo dimostrare nessuna forma di debolezza, e lo stesso governo giapponese si trova di fronte a un'opinione pubblica determinata a non lasciar fare il vicino cinese come il vicino cinese vorrebbe fare. Dunque il rischio, la ricetta per delle difficoltà serie sul piano politico militare ci sono. E purtroppo, appunto, è una crisi, una piccola, quella che sembra una piccola crisi, però tutti, anche i conflitti, nascono anche da piccole cose. Ovviamente tutti ci auguriamo che questa contesa possa essere risolta, non abbiamo bisogno di altre crisi, soprattutto militari, all'interno dello scacchiere internazionale. Un SMS ci dice: lo scorso gennaio sono stato in Giappone per la prima volta, è stata una sorpresa incredibile, molto positiva, sono tornato poi per turismo e il Giappone è un paese sicuramente da visitare. Sentiamo un ascoltatore, Sergio da Modena. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono stato in Giappone centinaia di volte per motivi di lavoro e volevo citare due aspetti che forse non tutti conoscono dei giapponesi. Il primo è la estrema correttezza dei giapponesi, e il secondo è l'approccio che loro hanno con la vita. Cioè, per il giapponese, soprattutto quelli di una certa età, la cosa più importante è la tua patria, la seconda è la compagnia per cui lavori, la terza è la tua famiglia e la quarta sei tu stesso. Esattamente il contrario di quello che avviene in Occidente. Ecco, solo questo volevo dire. Ringrazio, una testimonianza molto diretta, una scala di valori sicuramente che fa riflettere. E anche su questo io saluto Luigi Menegazzo, buongiorno. Buongiorno. Vicario generale dell'Ordine dei Saveriani, esperto di Giappone, è stato missionario in Giappone. E, ecco, sì. su questa scala di valori, i valori giapponesi, come è possibile essere aperti verso una realtà diversa anche come scala di valori verso quella occidentale, portare un messaggio senza voler imporre un messaggio. Allora, Don Luigi Menegazzo, missionario saveriano, la sua esperienza in Giappone che cosa le ha insegnato? Guardi, io ringrazio veramente i superiori che mi hanno mandato in Giappone, non ho vissuto lì per molto, per 15 anni. E quello che ho notato è soprattutto la nobiltà d'animo. Io ho studiato in modo particolare la cerimonia del tè, fino a ricevere il titolo di maestro di tè, e lo shintoismo. Sono due realtà che poi hanno influito molto anche sul nostro lavoro missionario, penetrare una cultura che in realtà all'esterno sembra molto ostica, penetrandola invece rivela delle sensibilità notevoli, quali per esempio il senso della comunità, io direi anche il senso dell'altro e, per quanto riguarda specificamente, direi, la mia vocazione, il senso del divino. Con questi tre punti credo che abbiano dimostrato di essere stati capaci di superare grandi difficoltà. In questi giorni ricordiamo anche per esempio le due bombe atomiche cadute, superate, due difficoltà superate nobilmente da questa popolazione. Quindi una grande capacità di ripresa. Ecco, lei ha studiato anche la figura di Alessandro Varignano, questo grande maestro italiano in Asia, di cui il libro di Vittorio Volpi. Già Varignano delinea questa realtà, questa necessità di un approccio così costruttivo verso i giapponesi, sì. Don Menegazzo. Sì, noi quel testo, che è il cerimoniale per i missionari del Giappone, lo consideriamo dal punto di vista nostro missionario ancora futurista, è uno stratega fenomenale. Vorremmo seguirlo un po' soprattutto nella metodicità e nella chiarezza di intenti nel penetrare la cultura. A questo scopo i Saveriani in Giappone hanno fondato due centri, ispirandosi anche al Varignano, il Centro Studi Asiatico, che studia la cultura giapponese facendo pubblicazioni, e il Shinmeizan, è un centro di dialogo interreligioso che cerca soprattutto il contatto con il buddismo. È uno stratega che ancora è luminoso per ciascuno di noi, indubbiamente. Ecco, ma com'è possibile portare un messaggio che comunque è un messaggio che vuole proporre qualcosa, rispettando fino in fondo poi la realtà, la tradizione, la cultura, la religione di questi popoli? È ancora attuale, lo dico un po' in maniera provocatoria, sì, Don Menegazzo, essere missionari in Giappone? Sì, io penso il nostro stile di essere missionari in Giappone è, direi, lo stile dell'incontro. Probabilmente il Varignano intendeva soprattutto questo, una reciproca conoscenza che metta in luce i valori reciproci. Io ho visto e ho sperimentato direttamente quanto il giapponese sia attento, ricettivo e rispettoso di ciò che veramente si presenta come valore. Altrettanto, se trova da parte nostra questo atteggiamento, l'incontro diviene veramente costruttivo. Non ho mai trovato quindi difficoltà di accoglienza. Grazie mille, grazie a Don Luigi Menegazzo, grazie. Vicario generale dell'Ordine dei Saveriani, è stato missionario in Giappone. Sentiamo un ascoltatore, Marco da Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno, sei in linea? No, Marco non c'è, è caduta la linea. Allora vediamo con Stefano Carrer, giornalista del Sole 24 Ore. Adesso il Giappone, da un punto di vista economico, che cosa sta facendo? Ma diciamo, la cosa più interessante, secondo me, dal nostro punto di vista, è questa, che tutti i problemi che in questo momento sono di attualità estrema in Europa, dall'eccesso di debito pubblico, come affrontarlo, dal perché, anche se i tassi sono bassissimi, l'economia non riparte, dalla sostenibilità del finanziamento della sicurezza sociale, ai rischi di deflazione, ecco, tutto questo è già stato vissuto in Giappone 15 anni fa, 10 anni fa, così. Quindi per questo gli economisti, anche gli osservatori che hanno studiato bene la lezione giapponese, in questo momento sono piuttosto depressi per la rigidità con cui in Europa vengono applicate delle ricette che, secondo quanto risulta dall'esperienza giapponese, non sono valide allo scopo, nel senso il Giappone però da un punto di vista economico forse è più vicino, che so, alla Germania, con questi grandi complessi industriali, con queste grandi realtà anche finanziarie. In fondo è un paese un po' tedesco, ha delle industrie, delle strutture che sono più legate appunto al sistema finanziario che non all'imprenditoria piccola e media come quella italiana. Sì, diciamo che comunque anche loro, come in Italia, così come in altri paesi, hanno nel dibattito pubblico in questo momento una forte preoccupazione per la tendenza alla delocalizzazione, cioè molti temono una deindustrializzazione, nel senso che la forza dello yen sta penalizzando sui mercati internazionali il prodotto giapponese e spingere grandi aziende, le loro grandi aziende, a delocalizzare all'estero sempre e più. Quindi in questo momento anche loro hanno un problema. Se localizzano in Italia va bene, perché alcuni esempi di aziende giapponesi che sono venute in Italia per essere più vicine al mercato europeo ci sono, e sono aziende anche che hanno avuto un buon successo. È tornato Marco da Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno a voi, buona giornata. Ci dica. Allora, io sono un cuoco professionista, la mia domanda è molto semplice, volevo sapere, aprire un'attività in Giappone cosa comporta con i costi, a livello anche previdenziale e vari documenti? Soprattutto la cucina italiana è apprezzata in Giappone? È un punto interrogativo che mi sono posto perché volevo partire e aprire un'attività. La ringrazio, la domanda è molto chiara. È possibile aprire un ristorante italiano a Tokyo? La risposta dopo le notizie sul traffico la chiederemo all'ambasciatore Petrone. Ma adesso le notizie sul traffico. 9 in punto. Eccoci allora nell'ultima parte di 9 in punto. Una telefonata di un ascoltatore poco fa ci ha chiesto se è possibile ed è appunto pensabile di poter aprire un'attività sul fronte economico, un ristorante, un punto di ristoro, chiamiamolo come vogliamo, di cucina italiana a Tokyo, in un'altra città giapponese. Una domanda che giro all'ambasciatore Vincenzo Petrone. Se dovessi scegliere un settore di attività in cui andare io personalmente a fare l'imprenditore in Giappone, sceglierei quello del cibo, perché tenga presente che in questo momento a Tokyo noi abbiamo registrato in ambasciata 1600 ristoranti italiani, 1600, e parliamo soltanto di Tokyo, non di tutto il Giappone. Dunque tenga presente poi che il nostro export di prodotti alimentari in Giappone è in perenne crescita. Quest'anno abbiamo totalizzato circa 600 milioni di euro di prodotti alimentari esportati. L'appetito, se posso dire così, del grande pubblico giapponese per la cucina italiana è immenso, continua a crescere e, a mio modo di vedere, crescerà ancora in futuro. L'unica vera difficoltà che io vedo non è tanto il finanziamento dell'apertura di un'attività, perché spessissimo i cuochi italiani, gli operatori italiani trovano dei soci finanziari giapponesi. Il problema vero è avere la pazienza e la professionalità per poter importare i prodotti freschi, perché la regolamentazione doganale giapponese purtroppo è molto complessa e dunque può diventare un problema per chi ha bisogno tutti i giorni di importare prodotti freschi dall'Italia. Ma tutto ciò premesso, il settore della ristorazione italiano in Giappone è certamente uno dei più sani, dei più dinamici, con il miglior futuro possibile. Quindi porte aperte a chi vuole andare a fare il cuoco in Giappone, le possibilità ci sono, e appunto anche grazie all'immagine della cucina italiana. Io saluto Alberto Cavicchiolo, buongiorno. Buongiorno. Alberto Cavicchiolo è animatore del Forum Varignano, abbiamo parlato appunto di questa figura che sta appunto tornando di attualità proprio per sostenere questi rapporti anche culturali tra Italia e Giappone. Quali sono gli obiettivi del Forum Varignano, Alberto Cavicchiolo? Beh, anzitutto di fare leva sul grande lavoro che alcuni milanesi come Vittorio Volpi hanno fatto in questi 30 anni. Noi abbiamo certamente un conto aperto tra Milano e il Giappone. Milano è la città che riceve più turisti giapponesi, praticamente 1 milione di persone, è veramente un nodo strategico. Forum Varignano ha appena fatto un grande congresso a Chieti il 4 maggio, a cui hanno partecipato appunto le maggiori istituzioni. Io ringrazio in particolare la regione Abruzzo, che forse è la regione più giapponese d'Italia, il suo presidente Gianni Chiodi. Perché più giapponese? Perché ci sono già 5-6 mila dipendenti da aziende giapponesi che vivono in Abruzzo, dalla Honda alla Pilkington alla Toyota. Questo è il Forum Valignano, cioè trovare le interconnessioni che in nome di questo straordinario, questa straordinaria figura di Alessandro Valignano metta in atto in qualche modo il suo insegnamento. Ecco, sotto questo profilo ci sono altre iniziative in programma nei due sensi, sia in Giappone. Ce ne sono tantissime. Adesso, riallacciandomi all'intervento dell'ambasciatore Petrone, il Forum Valignano ha appena concluso un grande accordo con i magazzini Isetan a Tokyo, che farà una grande promozione dell'Abruzzo, ma soprattutto dei suoi prodotti agroalimentari. Per cui ci sarà nel 2013 l'anno dell'Abruzzo in Giappone. E per questo ringraziamo sia la Fondazione Italia-Giappone diretta da Donati, sia la Fondazione Carichieti presieduta dal Presidente Dinisio, che sono stati, diciamo, degli integratori straordinari del Forum Valignano. Adesso noi portiamo l'Abruzzo in Giappone, che sarà anche culminato, l'apertura di queste manifestazioni sarà fatta tra poco, tra 15 giorni a Tokyo, dove verrà assegnato il Valignano Award dalla dottoressa Ishikawa, una importante imprenditrice che ha avviato con il premio Valignano uno scambio per premiare artisti e imprenditori giapponesi. Il 31 agosto a Tokyo la prima edizione del premio Valignano. Ecco, quindi diciamo tutto si tiene, la cultura, i rapporti economici, i rapporti sociali, i rapporti anche che diventano poi operativi con le iniziative poi individuali di tante persone, dai cuochi che vogliono andare in Giappone a realtà, grandi realtà economiche come le aziende giapponesi che si insediano in Italia, come Valentino Rossi che torna a correre con una moto giapponese. Quindi ecco, le possibilità, le opportunità sono tante. Io tornerei proprio avviandoci verso la conclusione a fare un po' il punto di questo, anche di questo programma, per vedere appunto in prospettiva cosa possiamo aspettarci, su che cosa possiamo puntare. Certamente il Giappone ha, come diceva Stefano Carrer, molte delle difficoltà che hanno ancora adesso i sistemi, gli stati, i paesi occidentali, in una crisi finanziaria sicuramente forte, ma che cosa ci insegna proprio l'esperienza giapponese e cosa può insegnarci l'esperienza giapponese sotto il profilo economico, Stefano Carrer? L'esperienza giapponese appunto ci dà molti insegnamenti interessanti per come affrontare la grave crisi dell'Europa, e soprattutto, e questo bisogna dirlo, insomma, la cosa piuttosto da qualche punto di vista sconvolgente è che il Giappone ha insegnato che paradossalmente il debito pubblico di una nazione può aumentare anche se lo Stato alza la pressione fiscale e taglia le sue spese. Anzi, addirittura ci sono dei momenti in cui il debito pubblico di uno Stato aumenta proprio perché lo Stato alza la pressione fiscale e taglia le sue spese. Questo quando avviene? Quando avviene in un contesto recessivo in cui il settore privato, dopo lo scoppio di una bolla immobiliare o borsistica, è impegnato, a partire dalle sue banche, nel ridurre il suo indebitamento. Se anche lo Stato contribuisce ad aggravare il gap che si crea nella domanda, a questo punto addirittura appunto il debito pubblico aumenta perché c'è uno stock pregresso molto alto, e quindi quanto più uno Stato alza le tasse e taglia le spese, e quindi vediamo l'esempio della Grecia, addirittura questa ricetta è, non così a livello come un'opinione, ma dall'esperienza giapponese, da una formula matematica quasi, la situazione non si risolve e si aggrava addirittura. Nel concreto, tu hai visto da vicino la realtà giapponese, anche la realtà amministrativa statale. Forse in Giappone lo Stato è un po' più efficiente che non in Italia. Forse in Italia qualche spreco forse si può tagliare raggiungendo una maggiore efficienza proprio a livello di capacità amministrativa e burocratica. Sì, questo sicuramente, però è anche vero che insomma è un problema macroeconomico in cui ci sono dei momenti in cui l'unico modo per sostenere la domanda e quindi per evitare un avvitamento dell'economia è quello che ci siano delle misure per la crescita. Ecco, misure per la crescita, su questo fronte forse siamo un po' in contrasto. Le misure per la crescita in Italia dovrebbero essere quelle di rendere più efficiente lo Stato, quindi di fare un passo indietro lo Stato, e più efficiente l'industria privata, la possibilità di iniziativa privata da parte dei cittadini, e quindi rendere appunto anche il contesto più efficiente, meno che proprio riducendo le spese possa ridurre nello stesso tempo le tasse, cosa su cui si discute in questo periodo, ma ne discuterete sicuramente in questo programma settimana prossima con Oscar Giannino. Ambasciatore Petroni, in conclusione, cosa ci può insegnare guardare il Giappone non solo a livello di politica economica, ma direi come, come stile di vita, come stile di come capacità e come possibilità appunto di realizzare una società ordinata, magari anche con un po' di fantasia, come richiamava Zaccheroni. Vincenzo Petrone. Guardi, uno degli ascoltatori che è intervenuto nella trasmissione parlava di questo spirito di corpo, se posso chiamarlo così, che è caratteristico della cultura giapponese, cioè il mettere la collettività e la comunità di cui si fa parte avanti rispetto al se stesso, rispetto all'individualità. Io credo che a noi italiani, soprattutto in un momento complesso come questo, in cui il governo sta cercando di ovviare ad anni ed anni di errori e di facilità, diciamo, nel rinviare i problemi, bene, in un momento come questo noi avremo bisogno di un briciolo di coesione che ricordi la coesione con la quale il Giappone si sta risollevando dopo il terribile evento dell'11 marzo 2011. Lei ricorda che nel giro di 45 minuti il Giappone fu colpito prima dal terremoto, poi da uno tsunami e subito dopo da una crisi nucleare. Ciò nonostante il paese non si è mai messo in ginocchio. Dunque, di fronte a tutto questo, una crisi economica anche importante come quella che per esempio l'Italia sta attraversando è ben poca cosa. Occorre lo stesso spirito di coesione nazionale, di solidarietà e di spirito di gruppo con il quale il Giappone si è risollevato. Noi da questo punto di vista, a mio modo di vedere, dobbiamo guardare al Giappone come un esempio. Ecco, indubbiamente uno spirito di coesione nazionale, uno spirito di partecipazione, uno spirito in cui c'è appunto condivisione tra i valori dei singoli e i valori della società. Questo è in fondo un esempio. Chiedo a Vittorio Volpi anche su questo fronte se è d'accordo. Sì, io penso che, osservando un po' la storia del mondo, che le culture sono difficilmente esportabili. I giapponesi fanno parte comunque di un fenomeno che io non ho mai visto in altri continenti, cioè di una società gruppistica, e probabilmente viene dal suo isolamento e dalla cultura del riso, dove l'acqua va condivisa con tutti, se si è monocultura. E quindi è difficilmente esportabile. Certamente un minimo di quella coesione, di quello spirito di gruppo, di quel senso che siamo tutti sulla stessa barca, anche a noi italiani non farebbe male in questo momento. Il Giappone ha tante gatte da pelare e le sta affrontando certamente con molta intensità. Concordo con Carrer soprattutto che il Giappone ha capito che situazioni gravissime come quelle attuali non si risolvono tagliando a destra e a sinistra senza occuparsi della crescita economica e dell'occupazione. Ed è su questo che noi dobbiamo ritornare a ragionare, guardando un po' di più al Giappone, che ha affrontato questi problemi guardando a 20 anni e non a 3 mesi. Grazie a Vittorio Volpi. Una sola battuta da Don Luigi Menegazzo, che è ancora in linea proprio sulle prospettive del rapporto culturale tra Italia e Giappone. Don Menegazzo. Sì, ma noi stiamo studiando molto questa cultura perché abbiamo molto da imparare. Crediamo soprattutto che ci sia da parte della spiritualità loro, la chiamiamo così con il nostro linguaggio, soprattutto buddismo e shintoismo, imparare quella tranquillità d'animo, che significa forza, per affrontare quotidianamente ciò che si prospetta anche come difficoltà. Senno Rikyu, il grande maestro della cerimonia del tè, diceva tra le sue 7 regole, bisogna sempre avere l'ombrello pronto, intendendo, sii sempre fortemente tranquillo perché così potrai superare qualsiasi imprevisto. Grazie mille. Ha molto da insegnarci. Mi sembra una conclusione perfetta. Bisogna avere la serenità di animo, ma la prontezza di rispondere anche alle maggiori difficoltà. Ci fermiamo qui. Io ringrazio Vincenzo Petrone, ambasciatore italiano in Giappone, Stefano Carrer, Vittorio Volpi, Don Luigi Menegazzo e Alberto Cavicchiolo che ci hanno accompagnato. Ringrazio Luca Cremonese in redazione, Matteo Comes in regia. Si ferma qui anche la mia breve esperienza di 9 in punto. L'appuntamento con me è per il 4 agosto del 2013, da lunedì torna Oscar Giannino. Radio 24. La passione si sente.